tu e sono io. Ogni volta mi rialzo e sono io a raccogliere quei cocci che il tempo aggiusterà. Poi tutto se ne va, come sempre tutto passa e resta qua, solo un ruvido pensiero mi aggrappo a te. We'll be right back.